Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di lavoro, parliamo del futuro del lavoro che aspetterà soprattutto i giovani nel futuro. E ne parliamo con due ospiti che vi presento subito, sono Walter Passerini. Buonasera Passerini. Buonasera a tutti, buonasera. Passerini ha fatto la prefazione del libro di Richard Donkin, Il futuro del lavoro. Donkin è uno dei maggiori esperti mondiali di mondo del lavoro, ma anche Passerini è uno dei maggiori esperti italiani del mondo del lavoro. È stato per anni protagonista, responsabile di un supplemento sul lavoro del Sole 24 Ore e ora collabora con La Stampa. E l'altro ospite è Giampaolo Colletti. Buonasera Colletti. Buonasera, grazie dell'invito. Colletti è autore del libro www.workers, i nuovi lavoratori della rete, come abbandonare il posto fisso e trasformare la propria passione in un lavoro online. Entrambi i libri sono editi dal gruppo del Sole 24 Ore. Allora, Passerini, Il futuro del lavoro, questo libro sembra quasi contraddire il libro che 15 anni fa aveva scritto Jeremy Rifkin, La fine del lavoro. Il lavoro non finirà. No, assolutamente, è giusto partire proprio da quella cultura che faceva dire Rifkin che in realtà sarebbe stato il lavoro salariato a scomparire. In realtà il lavoro, anche quello salariato, non è scomparso, il lavoro è in aumento, non è affatto in declino, sta cambiando morfologia. Per esempio, per ricordare un altro libro, Dall'uomo flessibile di Richard Sennett, stiamo passando all'uomo artigiano. In sostanza c'è un passaggio, soprattutto nelle società occidentali, di un processo dal lavoro dipendente al lavoro intraprendente. Questo è il passaggio più interessante che segnerà la nostra epoca anche nei prossimi anni. Ecco, in pratica la tecnologia ci sta aiutando a riscoprire un nuovo tipo di lavoro in cui però l'uomo torna ad essere protagonista. Da un lato l'individuo torna protagonista e quindi il passaggio anche culturale dal lavoro come diritto al lavoro come progetto, e questo è un passaggio culturale profondo, e dall'altro lato anche gli individui dentro le aziende, cioè le persone, ridiventano importanti, nel senso che da un lato ci sono delle politiche molto attente all'eccellenza e ai talenti, e dall'altro lato anche le persone cosiddette dipendenti lavorano in un modo e lavoreranno in un modo completamente diverso e molto molto autonomo. Quindi questo libro di Donkin può aiutare anche a vivere meglio questa nuova prospettiva? È un libro che consiglieresti ai giovani? Assolutamente, io credo che dalla fine del lavoro al futuro del lavoro il passaggio è molto interessante, si parla molto di futuro, tra l'altro in questo stile British di Donkin che io leggevo sul Financial Times sempre divorandolo, è molto interessante. Ecco, il passaggio, ripeto, se devo in sintesi dire qual è il consiglio maggiore, è pensatevi nel futuro non come dei dipendenti, io credo che il termine dipendente sia un crimine contro l'umanità, ma pensatevi come lavoratori indipendenti e soprattutto intraprendenti. Costruitevi il vostro lavoro. Ecco, e questa è proprio la filosofia di Giampaolo Colletti, come abbandonare il posto fisso e trasformare la propria passione in un lavoro online. Allora, Colletti, è questa la prospettiva? Sì, condivido completamente la posizione di Passerini. Beh, d'altronde è una storia che ormai appartiene a un folto nucleo di lavoratori e soprattutto lavoratrici che decidono di abbandonare il posto fisso e di mettersi in proprio grazie ad una rete che non è più lontana o tecnologicamente avanzata, ma è una rete legata molto a una sorta di umanesimo, la rete grazie al web che diventa accessibile con servizi di e-commerce basilari, reinventandosi un lavoro appunto grazie alle nuove tecnologie. Ecco, che può essere un lavoro tradizionale, perché in questo libro, lo ricordo, Workers, ci sono esempi non solo di persone che lavorano nella rete con la rete, ma anche di pastori, di enologi, di fotografi che grazie alla rete hanno reinventato il proprio lavoro. Sì, in realtà non sono lavori tecnologicamente avanzati, ma sono i vecchi lavori reinventati grazie a un uso della rete che da un lato è vetrina, dall'altro però è dialogo. Questi nuovi lavoratori hanno capito che possono diventare davvero da dipendenti a imprenditori in rete grazie a un dialogo continuo, a mettersi comunque in gioco e sfruttando quelle che sono le nuove tecnologie. Forse lavorano più ore, perché sicuramente questi WW Workers lavorano molte più ore di un classico lavoratore che timbra un cartellino. Però però ricalibrano il proprio orologio biologico. Non a caso, secondo me, quel 65% di donne WW workers sono quelle che in realtà riescono a coniugare meglio famiglia e lavoro anche da casa grazie alle nuove tecnologie. Ecco, ma in prospettiva ci può essere posto per persone di questo tipo anche nelle aziende, tra virgolette, tradizionali? Io dico questo, che in realtà rispetto ad una situazione che vede l'Italia in uno degli ultimi posti per quanto riguarda il telelavoro, soltanto 800.000 lavoratori, che in prospettiva tenderà a crescere, secondo me il futuro sarà di questi imprenditori che in rete e che nelle aziende faranno anche un lavoro di tipo consulenziale. Peraltro sono tutti quanti lavoratori che sono legati anche proprio all'artigianalità del lavoro, sono nuove professioni che utilizzano prodotti e servizi del territorio, esperienze local che forse fanno e farebbero molto, molto gola anche alle piccole e medie imprese geolocalizzate, territorializzate in Italia. Ecco, mi pare che la prospettiva che unisce un po' questi due libri è il fatto di avere appunto un'immagine del futuro molto positiva. Walter Passerini, l'ultimo capitolo del libro di Donkin si intitola Verso una società migliore, una società in cui il lavoro sarà una potenzialità in crescita. Passerini. Sì, assolutamente, se però come dire, si verificano alcune condizioni di base. Beh, intanto sfaterei il mito che il posto fisso non ci sarà più. Io credo che saremo un 80-20, una legge di Pareto l'avremo anche in questo campo, quindi stiamo parlando comunque di contratti a tempo indeterminato che non sono affatto morti, ma di un flusso continuo di lavoro flessibile e intraprendente che ci sarà. E dall'altro lato certamente bisognerà puntare su una serie di servizi che aiutino queste persone, anche quando diciamo ai ragazzi mettetevi in proprio, facciamo la predica, se nello stesso momento non inventiamo delle pratiche, dei servizi che aiutino davvero i nostri giovani a mettersi in proprio, le donne, gli over 50 che perdono un lavoro. Quindi la condizione base è una condizione di tipo culturale, cioè siamo disponibili al lavoro indipendente, ma dall'altro lato ci vogliono dei servizi possibilmente gratuiti che aiutino le persone a realizzare i propri progetti professionali. Ecco, proprio di progetti professionali parla anche Colletti, e mi pare che la logica sia anche quella: consideriamo la rete come uno strumento, come una grande potenzialità, però per fare altre cose, non per vivere solo con la rete, nella rete, quasi guardandosi sempre l'ombelico nella rete, ma per sviluppare e potenziare i tradizionali anche impieghi e tradizionali professioni e riscoprire anche un certo artigianato. Colletti. Assolutamente, in realtà questi WW workers vanno oltre la rete, vivono in realtà nel contatto ancora faccia a faccia, porta a porta con il cliente. Il dog sitter online sfrutta la rete, però poi nell'Interland napoletano fa un servizio molto reale, tangibile. E peraltro poi io sfaterei anche il facile entusiasmo della rete to cure. In realtà in rete si possono avere delle buone, ottime idee, ma occorre mirare ad una comunità ristretta, una micro community, e avere un'idea vincente. La rete non è la panacea di ogni male, come qualche il tecnologo vuole far credere, forse. Ecco, la rete però ha anche bisogno di regole, in questo senso Colletti forse gli strumenti regolatori sono ancora tutti da inventare. C'è tutto un sistema di assetto, di norme, di regolamenti, ma anche banalmente un sistema di welfare, di tutela per questi lavoratori della rete. Chi è che tutela in qualche modo tutta questa nuova forza lavoro che sta emergendo in rete? Attualmente la rete fa da sola, ci sono dei forum online, si è in rete e si fa rete all'interno appunto di questi gruppi di lavoro, però in realtà forse è un sistema anche che andrebbe misurato e regolato a livello politico. Ed è quello che vorrei chiedere anche a Walter Passerini: anche il mercato del lavoro andrebbe aggiornato rispetto al lavoro visto in maniera tradizionale? Io credo che troppe regole rischino di uccidere il bambino nella culla, e quindi si tratta sicuramente di trovare forse nuovi modi e nuove regole, ma non burocratiche e non, come dire, troppo prescrittive. Insomma, credo che il problema sia quello di dare fiducia ai lavoratori e non controllarne la prestazione minuto per minuto, e credo soprattutto delle regole che privilegino i risultati. Ecco, quindi diciamo pari opportunità di partenza per tutti, controllo sui risultati più che sulle procedure, e soprattutto grande fiducia che il futuro del lavoro è in mano alle persone ed è il prodotto delle persone. Ecco, il prodotto delle persone è anche quello, e qui concludi per esempio la tua introduzione ricordando le potenzialità anche del volontariato, che non vanno dimenticate. Anche questa nuova realtà introduce nuove potenzialità per il cosiddetto terzo settore. Passerini. Assolutamente, tra l'altro lo ricordava anche Rifkin nel suo libro, il terzo settore è quel settore dove c'è un trade-off positivo, uno scambio positivo tra significato, lavoro e senso del lavoro e della vita, quindi è un mondo di significato significati, una persona è disponibile anche a essere pagata meno perché ha un senso quello che fa. E io credo che il terzo settore crescerà moltissimo nei prossimi anni e sarà un territorio non solo di gratuità o di generosità, ma sarà un territorio di alta professionalità. Per fare il bene bisogna saperlo fare bene. Ecco, io vorrei a questo punto, dato che siamo sabato sera, ricordare l'ultimo consiglio utile nel libro di Donkin alla conclusione, in cui dice: rendere nuovamente la domenica un giorno speciale, una giornata di vero riposo, è preziosa sia per la componente laica della società sia per chi la dedica a pratiche di culto. E quindi vivere sicuramente il lavoro, ma ogni tanto trovare anche qualche spazio per pensare alle cose reali e più concrete e ai veri valori. Io ringrazio Walter Passerini, che ha fatto la prefazione del libro di Richard Donkin, Il futuro del lavoro, edito dal Sole 24 Ore. Sono 384 pagine per 25 euro, così come ringrazio Giampaolo Colletti, autore del libro WWWorkers, i nuovi lavoratori della rete, come abbandonare il posto fisso e trasformare la propria passione in un lavoro online. Anche questo è edito dal Sole 24 Ore, 174 pagine per 18 euro. E dato che siamo ai ringraziamenti, anche Filippo Aureggi in regia, Anita Panizza in redazione, vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buon lavoro, buon libri a tutti.